tu non me la domani retta a me. Sta già dito abbigliati la PLC Minox e non te ne pensi. Allora, è la Sigma, è della serie PLC 600, 1800, questa è la Minox, la più piccola. E pompa che cosa va? Ma su internet costa 45 euro, 40 euro, adesso non mi ricordo, ma è un'antenna che vale, da tutte le parti arrivi, è come la mia, è mia. Io la mia me l'ho fatta con le misure della PLC Minox. Sigma PLC Minox. Quella lì, guarda, Minox S, c'è la S e c'è l'altra che sono più o meno uguali, però la S o la L, adesso non mi ricordo, quella con la molla comunque che c'è la molla centrale, quella lì è più comoda perché se tu tocchi si abbassa, si piega, capito dove c'è la molla, invece l'altra no, l'altra si può truccare. La costa una cazzata e va alla grande. La S mi pare che sia quella con la molla, comunque è quella con la molla che devi prendere, quella che c'è la molla centrale, quella lì è migliore perché quando tu tocchi con l'antenna, anche se è difficile che tocchi perché è piccola, è 75 cm mi pare, quando tu tocchi, puoi toccare quando vai in un garage tipo quelli di Montinido, roba così, e se tocca si abbassa, capito? Si abbassa la molla, quindi non si tronca, invece un'altra è tettara. Non ne ha rottetta, non ne ha, non ne ha. Quella lì è un altro tipo, già lo so che quella dove si regolano le stazionali, non è quella lì. E comunque quella su internet è già la tua. PLC Minox. Qualsiasi unità ce l'ha che vende Sigma, antenne Sigma, la 600, la 300 c'è anche la Minox. Per tremendo qua, comunque niente, comunque il segnale com'è la tele? Allora dimmi praticamente i segnali, adesso ti chiedo uno, poi l'altro, vediamo un pochettino come arriva qua, così come ti sta arrivando 1, 2, 3 il segnale. Così? Sì. È così? Appagato. Aspetta per l'altro passaggio. Guarda così adesso, 1, 2, 3. Quindi stesso segnale da uno all'altro, ok, capito. Ho capito, andava bene, dai. Sì, così sono, no? Sempre 4, sì, 3,4, sì. E io a 5. Così a 5, guarda, 1, 2, 3. E allora c'è qualche cosa, là. C'è qualche cosa o nello spezzone di quella storia lì, oppure controllati l'entrata dell'antenna. Io non mi voglio nulla, basta provare col test e te ne accorgi subito. Te ne accorgi subito, capito? Però. No. Che cosa? dipende sempre dalle antenne. Se io per dire uso una tubo 2001 va a massa. Non lo so quella lì, antenna, il tipo di antenna è tutti i negativi mi fanno, aspetta. E adesso no, mi domi, è perché ha regolato, ma tutti adesso va bene. Allora, così santo si sente 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso si è aumentato, sì, sì. Lampada. anche detto piccoletto, piccoletto la metterete? Io l'ho già fatto. Sì, ma io già lo posso. Io ho pensato a farlo della Vespa, che c'ho il cassettino, ho messo le batterie al piombo lì dentro, capito già? Dentro il cassettino. E poi la ruota di scorta perché ce l'ho davanti e metterò per cosa. E fare una staffa senza bucare la, la carrozzeria, no? Portare una staffa che cammina all'interno dietro della scocca, che esce fuori con una cosa specie di sagoma, e dopo ci va la farfalla con la cosa della moto, per mettere il filo. Ma io una volta sono salito al quadrato che ho tolto il bauletto della moto e l'unico pezzo di ferro che c'ha quella moto, perché tutto il resto è rigido, tutto il vetro rigido, quindi la staffa del bauletto l'ho usata, ci ho messo una magnetica da 2 metri dietro, ha fatto passare il filo tutto bene, tutto quanto, e ho messo un barattino portatile e ho attaccato l'attacco elettrico alla accendicigari, perché c'è l'attacco della accendicigari, non molto mio, io, e ho parlato. E infatti, lo scooterone potrebbe andare ancora meglio perché c'è una bella batteria. Lì invece, per mettere il baracchino davanti dove lo voglio mettere io, per non vedersi bene, dovrei montare quel parabrezza piccolino, capito? Ma... in moto tanto ci vorrebbe la voce, perché in moto è un casino, o l'auricolare, il microfono, perché non ti puoi distrarre, in moto basta un attimo e se ti distrai in macchina tu mi dai un marciapiede, ma in moto mi dai un marciapiede a mano. Capito com'è, non ti puoi distrarre. Ma una volta ce l'avevano anche i cinesi. I vigili urbani di Chaffee ci avevano il radio e il telefono. Luccali è... Hola? Hola? Adesso perché si timba. Radio così come come la senti, chiara? Capaga, non mi interessa se la radio è chiara. Capaga, va bene allora. Quindi per la decimino devi cambiare tutto l'attacco, devi regalare uno e muni là, stato un filo, toglietelo, ti togli tutto, ti metti la decimino, se vedrai che non te le pinti, perché ti tiene circa 500 watt, poi c'è cioè, un'antenna che va benissimo, perché non ha grossi, non ha grosse cose, non... Va bene, dai, è un'antenna che va bene. Va benissimo con l'antenna. Tutti quelli che ce l'hanno l'hanno elogiata, poi. Dipende come sei tu, se ti piace, se non ti piace, non lo so, però tutti quelli che l'hanno presa, credi l'ho consigliato, che l'hanno presa, sono stati molto contenti. Che è carina, non si assomiglia nemmeno alla antenna di baracchino, è carina come un'antenna piccolina e sincera, ecco, quello che ti volevo dire io è quello, è piccola e sincera. Vai tranquillo, la carica è quella più o meno della PDC 600, 800 e 1000, capito? Perché va bene. un'antenna. Che la rete, Gianni? No, ma non si può riuscire a dire radio. Passo. Adesso no. Poco prima. Era la radio solo bassa. Anche di 40 centimetri sarà 50. sì, quello è vero. Perché finché stai andando piano, magari il colpo lo prendi lo stesso, ma lo prendi più lieve. Anche se lo dovessi prendere lo prendi più lieve. Ad alta velocità lo prendi forte il colpo. La differenza è tanta. Ma Gianlu, io dico una cosa, se uno non se la cerca è anche di stile, perché quella signora che stava proponendo da Prattamona verso Sassari mi ha detto che ha visto la macchina volare come nei film, gli sembrava un grosso uccello che gli stava andando incontro, non sapeva più cosa fare, ha sterzato e lì si è salvata, perché come ha sterzato la macchina gli è andata di lato, invece che cadere sulla cappotta, capito? Se no l'avrebbe schiacciato. Buon buccio. Attento mio hermano della Scusia alla Sardegna, delante per un comprendino. Vamos a ver mio hermano della Scusia della Sardegna, delante. Gli altri anni la propagazione si sentiva dalla primavera, no? Sì, non si sente soltanto un guarremio nastro, però propagazione proprio ancora zero. C'è, perché quando io alzo l'amplificatore d'antenna riesco a sentire qualcuno, capito? Però ti porta dietro qua a Roma e tutto quanto, il amplificatore, non si vede nulla. L'inquinamento atmosferico anche che produce queste cose, capito? Telefoni al nastro, un po' di tutto. È l'uomo che sta rovinando tutto. Se invece che salire sulla luna avrebbero pensato a mettere a posto un po' sulla terra le cose, no? Per carità, ma poi a fine dei conti che cosa vuol dire fare? perso Luca. E mai l'hanno scaricato quanto c'era. Ha preso il coso del neve, della luce, il faro, ed ha abbassato a terra, l'ha appiattito praticamente, ha capottato, ha volato, dice questa signora, ha detto che ha visto, stava salendo da Trattamare verso il Sassari, che ha visto questa cosa che volava, sembrava un uccello enorme, e ha avuto il coso di sterzare di colpo e praticamente si è salvata, perché se no sarebbe andata sulla capoccia e avrebbe schiacciato anche lì. Io ho saputo che era, adesso non so se è il figlio o se il fratello piccolo di quello del Barbettone, del Quattrassimi, vecchio Quattrassi. Ho capito, Barbettone non so quale, sì. C'è quel ragazzino, c'era quel ragazzino che si riva, però non so se il fratello o il figlio di Gabinuccia, poi di della sorella. Non te lo so dire. La macchina era sicuramente una Opel Corsa, penso, perché una Opel era una Opel, però del resto non si capiva bene la macchina Corsa. E poi ne sono successi due mortali. Da portatore su questo ragazzo sposato da poco, il giorno aveva avuto la bambina, la figlia, la moglie, ed è molto risicato, improvvisamente ha fatto quella curva, invece dopo la fiamma sale, invece l'incrocio per andare verso la circuito 31, ce l'è presente, per andare verso i biliardi, lì, in traverso. Ha fatto quella curva lì e gli ha sbandato la marca, c'è andato il finale, ce l'ha fatta e si è battuto un altro treno. Sarà una mezz'ora fa, forse è una mezz'ora fa circa. Se non un'ora, ho visto due ambulanze salire verso di nuovo dove è successo l'incidente, su. Se vuol dire mi auguro di no, ma c'era, guarda, io sono andato a fare un giro in moto, sono sceso anche a Trattamare, per dire la spiaggia di Trattamare piena di gente sdraiata nella spiaggia, gente che si faceva il bagno, guarda, sembrava restare. Sì. Oggi ha fatto molto caldo, infatti la gente va bene, approfitta, visto e considerato che c'è molta gente a spasso, almeno andare a prendersi un po' di sole, i primi sole, anche perché domenica mi pare che ha messo acqua. Allora dovrebbe fare, domani, dopodomani bello, però dopodomani pomeriggio a quanto pare c'è un cambiamento di tempo, non si sa se, cioè hanno detto che pioveva, però sai, il tempo lo comanda. Infatti, beh, ma mi sembra un po' troppo azzardato per farsi bagnare se di Billy Maranni. Io mi ricordo da ragazzino, a gennaio eravamo già in acqua. Scusa un attimo. Figlia. Ora. Ma, ecco cosa ho usato. A volte anche la velocità frega, perché se uno va piano riesce anche a, diciamo, evitare l'ostacolo, perché se devi sorbitarlo magari l'impatto non è forte, è tremendo. Già, io non sono di quel parere, io sono del parere che basta la giornata sbagliata e se deve succedere tu succede, perché mi ho fatto cose azzardate e ci ho pensato quando sono entrato a casa, non quando la stavo facendo, quindi purtroppo basta un non niente, quello è vero, però se deve succedere già, non c'è nulla che tiene. Sì, ma davanti all'assurdità che ti possa succedere, cioè, una macchina che fa frena di colpo, roba del genere, se stai andando piano riesci a rallentare e a farcela, se stai andando forte abili in piedi. Vabbè, puoi anche dire, scendendo tre scalini, metti il piede male, sbatti la testa a terra e muori, cosa vuol dire? lo so, se non se la cerca uno può anche succederle, ma se non se la cerca è un conto, ma cammini la zecca che cammina come un matto, che si mette a pennare con la moto quando sta correndo, io ho visto certe moto sparate impennando quando stavano correndo, cioè cambiare marcia impennando, capito? Sì, già, vabbè, io non so se ti ricordi, c'è avuto il CBR, l'RR, ti porta a fare quelle cose, però voglio dire, cioè, anche se tu vai piano, se ne viene uno addosso, tu puoi andare piano quanto vuoi, però non riesci a schivarlo. La sorte purtroppo, se te succede, ti succede. Sì, infatti. Ma infatti dico, l'ho fatto grosso così, ma non ho mai preso, cioè non me ne ha fatto prendere mia moglie per dire la verità, perché a me piaceva. Davo molto il largo da mille, c'era un amico, però ero quasi sempre io praticamente, riuscire a vedere e guidarlo, perché era piacere da aspettare che guidare. Però dico la verità, mi è sempre venuto le cose di prendermi o l'RS o l'R1, mi sono sempre piaciute. Ha bloccato sempre mia moglie, in effetti non è che... Stasera stavo facendo un giro in moto, ero tutto contento perché erano i primi giorni, diciamo, di dalle giornate e cose. Quando ho visto il 15 mi è passata tutta la Puglia, ci credo. Ci credo, ci credo, ci credo. No, io diciamo che ho avuto il sogno di prenderla, ci sono riuscito e... Ho avuto anche il sogno di portarlo al limite, l'ho fatto, però sì, è bello perché lo posso raccontare. Io l'ho portata a 2,98 quella moto, oltre non andava. Però già, quando sono entrato a casa, credimi, ci ho pensato e cazzo, bastava non niente, che io non ce l'ho più. Io ho un amico così... appunto l'R1, l'R6, correntista, dipende da queste cose qua. Uno vabbè, uno che conosce la mia moglie, fatto così. Io l'ho conosciuta la mia tua, perché siamo andati in giro insieme a fare qualche giro, siamo usciti, ti ricordi? Sì, già mi ricordo, Uno te l'ha preso a Franco California e gli si è spenta. L'ho fatto anche a Claudio. Sì, già mi ricordo il giorno. Quindi già l'ho conosciuta, ma adesso tu ce l'hai quella della Honda, ce l'hai? No, non ce l'ho perché, allora, diciamo la verità, che non la stavo più utilizzando, era già più di un anno ferma, si stava deteriorando, nel senso che ha messo un po' di ossido nelle manopole, balle varie, però ho deciso di venderla, tanto non la stavo utilizzando, stavo sempre scendendo in macchina, poi con la scusa che avevo la macchina diesel, la sfruttavo di più e la moto la stavo lasciando, quando stavo facendo i lavori lì a Sassari la prendevo, però sai, non è comodissima come... cioè quando vai a fare soprattutto mangi fuori, che devi portare l'attrezzatura da lavoro oppure devi portare la sacca perché magari non sei in possibilità di andare a casa a mangiare, a levare, insomma era giusto bello uscire la domenica, fare un giro così, però a quel punto c'è anche la famiglia di mezzo, quindi sono tante cose, dai, giusto se devi fare qualche commissione, era molto sbrigativo, molto bello. Però l'ho abbandonata per un annetto, quindi ho deciso di venderla perché l'ho vista che stava deteriorando, capito? Mentre tu sei andava più andare in moto, ho capito. Ti dava adrenalina solo con la barba. sì, effettivamente sì, no, ma quella era, l'altra era un 400, ma che tu pensa che ho provato a spingerla e non andavo oltre 170, 175, non andavo oltre, però iniziava a vibrare il manubrio di davanti, che stava vibrando da una parte all'altra, l'ho tirata al 131, figurati, quindi non è che... allora come spunto, cioè quando è come che tu hai, per fare un esempio, no? Hai una bella macchina grintosa, sportiva, ma lavori e poi magari ti trovi con a 500, 600, hai capito? Quindi un salto di, non è fatto un salto di qualità, è fatto un salto indietro. Io però già mi accontento, vado anche a lavorare, molto spazioso sotto la sella, ci stanno per farti capire tre buste di spesa, non è quattro buste di spesa, tranquilla. La mia ci stavano due caschi integrali, diciamo, quindi come spazio già ce n'era, però non mi soddisfava. Poi mi stavo mezzo fissando con il T-Max, ho provato il GP800 e mi piaceva ancora di più, però ti ripeto, è una moto che è troppo veloce e non c'è moto sotto me, perché mi sembra che fa... Quella moto lì mi sembra che fa 215 km orari ed è uno scooterone, non ti credi chi... 170. Il GP800? Ah no, stavo parlando del T-Maxi. Ah, no, il T-Maxi magari farà anche di più di 170, perché 170 la faceva la mia, l'Honda 400, a 40 km, poi sono... Le prove tecniche reali non le conosco, però al conto chilometri che avevo io ha raggiunto quella velocità lì. E a fa 160. Già. Allora, sinceramente, non ci vedo la sicurezza in quella moto, perché sono molto pesanti, non puoi... perlomeno, io parlo di... Sono abituato di moto tipo il sì, la Vespa, quelle varie, anche la Vespa quando la preparate, quelle varie, sì, raggiungeva una velocità di 110, 115, però sai, anche se non aveva una lunga frenata avevi la stabilità di poter curvare, quelle varie. Lo scooterone, cioè in confronto allo scooterone per dire è una bicicletta, perché è leggerissima. Con quelle moto lì non è la prontezza di stare a terzare, a fare ballevare, per come la vedo io. Lo so, ma lo sa cosa c'è? Che la Vespa aveva anche il motore da una parte, era un po' sbilanciata come moto. Io me lo ricordo, c'era il motore da una parte. No, vabbè, il volce del blocco che aveva già era equilibrata, è che... se mettivi i pezzi sotto, cacchio, spingeva troppo e non aveva frenata, non c'è mezzo da prendere, a quando frenarsi, cacchio, dovevi scalare casa tutto in prima proprio per rallentarti. Vabbè, anche quella è stata una delle mie più belle moto. Sì, la Vespa era bellissima, a me piace tuttora, infatti l'ho detto, io per riprendermela. Io l'ho venduta da poco, ce l'ho avuto sino a circa dai 6 a 8 mesi fa, l'ho venduta perché anche quella lì, ti ripeto, quando era a casa della mamma era un gioiellino, sai, perché era chiusa nell'ambito, quindi non prendeva umidità, non prendeva vento, non prendeva niente. Era giusto qualche ragazzino che sedeva, però non aveva neanche un graffio, quello, cioè, lo sapevano che era la mia, quindi la trattavano bene, si sedevano, si facevano finta di guidarla, però niente di che. L'ho portata qua a casa, già lo sapevo, abito io, l'ho messa sotto una veranda, anche se era tappata, tutto quello che vuoi. Il problema della salsidine, dell'aria aperta, dell'umidità, vale varie, anche lì ha iniziato a mettersi un po' di ossido nelle maniglie, l'acceleratore che si è indurito, prima accendeva il primo colpo, poi invece ha iniziato a accendere dopo 4-5 volte che la mettevi in moto, insomma tante cose ci sono. Poi una moto che ogni tanto ce la mettevo in moto, facevo un giro qua, nella strada di qua, ma niente di che, dai. Cos'è? Truccata? Ah? Truccata era come minimo. La 96 era, va bene. Però mi ripeto, il 96 mi piace un bel. Piccolino, abbassato. Qui a sacro cuore ne truccava meno dalla strada. E cambiava la campana, ribaldia, le marmitte, questo e quell'altro. Le coricavano intero, li mettevo un pezzo di cartone e li facevano tutti i lavori che li dovevano fare. Allora, no, ma noi ci abbiamo passato la nostra gioventù lì al bar di mio padre. In un cancello c'erano due magazzini dove mio padre deteneva i liquori e dove invece era una specie di officina, no? Ma sai le nottate che ci abbiamo fatto, ma anche alle 4-5 del mattino sempre smontando motori, cercando di piazzarle, riprovandole in quella discesa in via Sorso. Quando la mettevi in moto, proprio a farla squillare, cazzo. Eravamo scemi, cazzo, non sapevamo le nottate di noi. Se no quando c'era Pappino che ci perseguitava con Falcone a sedere risate, una volta praticamente gli hanno staccato la camera mentre stava facendo la multa a uno, e poi questo qua ha preso e se ne è scappato, quindi va a mettere in moto la moto, la metteva più in moto. No, noi, soprattutto quando c'era la festa della Dolce, c'erano degli amici che erano molto bravi col Vespino a impennare, no? E allora cosa facevano? Mettevano il posto di blocco dei carabinieri, lo faceva poi, no, molto preparate, molto che insomma riusciti già a gestire, passavano a casa impennando, facendosi vedere, proprio per sfidarli, andare a seguirli, no? Poi due giri lì a Pisa e persi. Gente che c'era Sebastiano, amico mio, ci metteva in pena la moto carrozzella addirittura. C'era Ciolle a Sacro Cuore che aveva i rapporti della Lambretta a 175, poco camminava quella Vespa. Non avevo già la Bessichidro, Papperino, la Bessichidro. Quindi sono bei tempi, vedi? Io mi ricordo che le cionfre erano quelle, erano, non c'era la delinquenza di oggi, non c'era la droga di oggi, quelle varie. Proprio le stupidaggini che facevi erano come chissà cosa stavi facendo, capito? Quella era una cosa che ti portava a vedere il vero senso della vita. Sì, no, quando c'erano le pattane delle macchine fatte in lamiera, tipo quelle da 500 per capirci, no? Noi avevamo questa pattana in mano. E cosa fare? Cosa non fare? Abbiamo deciso di fare questo gioco. Adesso passavano le macchine, mettevamo la pattana in alto, tutti i quattro si fermavano a controllare, si era compreso la pattana. Allora io mi ricordo, nel lontano 85, che avevo panificato, allora mio padre, Bonanni, mio nonno, deteneva un camioncino proprio all'entrata a fianco all'entrata del bar, no, diciamo. E quando l'ho rivicato, sai, quella discesa lì era brutta sia a scendere che a salire. E cosa aspettavamo noi? Noi ci mettevamo in un angolo, facevamo le palle di neve, cazzo, passavamo le macchine e tenevamo le macchine. E si cazzo di metti a provare a frenare, guarda bigliarsi, uia, però ci devo sempre a sorso, frenando a casa per carità, cercando di mantenere la stabilità della macchina, ma un cacchio ci trovavano, sì, giochi innocenti, cazzo, sì, magari anche per bambini deficienti, perché qualcuno si è anche sbattuto e chissà cosa ci avevano detto, se si manda la mano alla grande, che... Sì, noi facevamo pochi giochi. Di queste cose qua le facevamo bene, ma sempre senza far male a nessuno. Qualcosa che non mi piaceva quando facevano i gavettoni d'estate, oltre che sai che sempre i finisti dalla parte alla parte fra il caldo, lì ne approfittavano, ma come facevano le macchine, che prendevano il sacco della moneta, ne bevono di acqua, che li aggavettono. No, ma quindi sai, e poi ci riunivamo magari in Grecia a fare gli assassinati fino a tardi. Sai, quante volte sono scesi gli sbirri giù alla locomotiva, perché noi facevamo la nostra greffa. Io mi ricordo un giorno mi ho tolto la soddisfazione di contarli, eravamo in 96 il giorno, poi magari qualcuno mancava, qualcuno era... non era presente, capito? Quindi però già 96 persone in una greffa, caspita, e poi eravamo, che ne so, i classici 20-30 persone che rimanevano fino alle 3 del mattino, alle 4 del mattino, gente che magari ancora non avevano un lavoro fisso, quindi bene o male che ci passavano la nottata lì. Una volta sono scesi gli sbirri, ragazzi, ci facciamo la compagnia e iniziamo a raccontare barzellette, impari a Eddie, io via. Invece faccio gli sgombrare, faccio anche il caso loro. E tu frequentavi, quindi conoscevi a Monica, una tipesca a Monica Bascio. Lo sa, Bascio, non mi ricordo, tanto Bascio, perché lì, guarda, di Monica ce n'erano allora una, due, tre, forse quattro, però non mi ricordo bene bene i cognomi. Una mi ricordo che si chiama una Piras, l'altra Soggia, l'altra, non mi ricordo se quella che fece tutto frequentava con noi. Abitava lì proprio, praticamente c'era locomotiva, il palazzo che risulta di fronte lì. Eh sì, sicuramente sì, comunque, perché ci riunivamo tutti quanti lì, poi vabbè, non è che ti mettevi a ricordarti tutti i cognomi. Io poi adesso sono anche un po' senza, se faccio un po' di mente locale non è che me li ricordo tutti i nomi e i cognomi, capito? Ma poi vabbè, sono passati anni. Se pensi di anni che sono passati, sono passati un mediano, sembra che parli di ieri, se parlo di 30 anni fa. Cazzo, quando lo diceva mia madre, questa frase qui sembrava strana. Già, 30 anni no, ma è quasi. Sì, allora tu pensa che io lì ho iniziato a frequentare nel lontano 80, dall'83 sino all'88, 89, perché poi sono partito militare, poi sì, ho rifrequentato lì, però ho cambiato, dai, un po' da una parte, un po' dall'altra, poi magari ti sei perso un po' di vista anche con gli altri, però intanto, cioè, gli amici veri e propri, gli amici in generale, tra virgolette, perché amici non è che ce ne sono, si possono contare sulle punte delle dita, solitamente, amici veri e propri, ma conoscenti parecchi. Paga, sì, è vero. Ma io avevo più amiche donne che amici maschi, ma non per interesse, perché mi trovavo meglio, anche loro si trovavano meglio con me, quindi magari dovevi chiedere un consiglio, una cosa, dicevi, ma scusa, secondo te come devo fare con questa ragazza, eccetera, eccetera, devi chiedere un consiglio e loro ti chiedevano del sesso opposto, quindi ti potevi dare i consigli a vicenda. Sì, no, ma per quello già. Anch'io ero molto sul più col femminile che col maschile, però niente di. Diciamo che avevo un rapporto di vera amicizia, diciamo, ma poi c'era quella che ci stava in meno. vabbè. Ma gli amici ne avevo due soli in greffa, io ne avevo due di greffe, ne avevo una al banco di Sardegna, sotto il banco di Sardegna, tant'è vero che Mario Mau mi ricordava sempre, e una ne avevo su in provincia, e andavo un po' da una un po' dall'altra, anche in una sera, e avevo amici da una parte e dall'altra, quindi poi una andava a ballare, una greffa andava a ballare, l'altra andava in città, ma dove mi conveniva andavo. No, vabbè, noi lo stesso, quando dicevamo, perché noi poi ci siamo divisi, no? Sempre con la. C'è chi voleva salire in piazza, c'è chi voleva rimanere lì, e quindi facevamo un po' da una parte, un po' dall'altra, ma ci trovavamo sempre, non è che. Sì, anche noi avevamo la saletta in vicolo San Leonardo, no? È quella traversina che sale, visto via, come cacchio si chiama, dove esplosa il gas, via, non mi viene, vabbè, non è via Guido. E vabbè, lì vicino a Piazza Tola c'era quel negozio di scarpe, c'è il negozio di animali, il negozio di scarpe, poi c'è quella salettina, lì c'avevamo la saletta, no? C'avevamo la saletta e andavamo tutti a ballare. Ho capito. Altri tempi già, altri tempi. Allora era il tempo delle salette e non andavamo solo nella nostra, noi andavamo, ci invitavano a Tessale, c'era una grossa in via Oriani, c'era Luz Umbriri che era la ragazza Ledda, qualche volta c'era il latte dolce, come si chiamava? Oasi, no? Oasi. No, noi, vabbè, io mi ricordo l'era di Via Milano, certo. No, lì non sono mai andato, sono andato, ce n'era uno in Corso Trinità che era un bel grado e ti ha fatto avvertire che lì c'era la freccia, come butta fuori, Fudasso, la freccia, tutti quelli lì. Ma è Giovanni? Ecco, benissimo. Poi siamo andati in diverse discoteche, quella di Corso Trinità era un bel grande, era tutta avvetrata, c'era il coso per il guardaroba, enorme era, però lo sai cosa succede, rombe di condensa a casa, noi ci vi tutto con i capelli bagnati. Addirittura. E si forma bombe di condensa nei vetri, non lo so se era perché per la struttura come era fatta, era in un viottolo di Corso Trinità e alla fine del viottolo c'era praticamente proprio di fronte, di ripeto ti risultava la discoteca, era un bel grande, si scendeva giù, c'erano delle scalinate, si scendeva giù ed era enorme. E facevano entrare solo la gente conosciuta, capito? Io andavo quasi sempre, quindi a me mi facevano entrare tranquillamente, non c'erano problemi. E andavamo con le ragazze, tutti in greffa, una greffa dopo quando vedevano bere ragazze. Poi c'era una in via Oriani, quella era fatta bene davvero, quella lì, Gianni Coso. Come si chiamava? Gianni... No, non mi ricordo il cognome, cioè, ci invitava lui lì e c'era un bel giro fatto tutta bene, tutta quanta d'arcate, c'era la gabbina del DJ, ah poi ce n'era un'altra che si chiamava la Lucas Club, che praticamente era di Luca, di un nostro amico che dietro l'ippodromo lui c'aveva i cavalli, la stalla con i cavalli e cose, poi l'aveva spostata e dove c'era la stalla aveva fatto la discoteca, ma era città benino, era proprio bellina, tutta fatta i calci esclusi e cose, anche lì c'era la gabbina, lì addirittura c'erano i letti per i boscarti. Anche quello ci voleva, Praticamente c'era una stanza dove c'erano due letti che appoggiavano la roba, che i giubbotti e cose, e ogni tanto quando andavamo a mettere il giubbotto ci trovava qualche coppietta. Perché poi lottavano solo tipo materasso. No, quella lì era bellina, e c'era, mi ricordo che era fatta così, c'era una rotta di carro di bui, di carro a bui, di quelle, tutta fatta bene, colorata bene, tutta ripitturata, poi la gabbina del DJ e il posto per ballare, avevo conosciuto un po' di gente, di ragazze specialmente lì, sono stato bene. No, io, mi ricordo anche che ero ragazzino, forse avrò avuto 14-15 anni e mi avevo preso questo giubbotto, ma un giubbotto in pelle, e sono andato lì in via Milano per non pagare gli stupidi soldini per il guardaroba, metto qua una cosa l'altro, chi l'ha preso per sbaglio, chi cosa, sto giocando senza giubbotto, vabbè, questa volta è capitata a me. No, ti ribizzigavano un bel, anche discoteche rinomate, tipo Scala Ruglia, Club 24 a Porto Torres, la Dama di Curi, tutte quelle discoteche grosse. Se non la mettevi nel guardaroba non la acciappavi più, e specie se erano in pelle pure, allora andavano meglio butti in pelle. Vabbè. È andata così già, dovevo tanto venuto a stare lì, non ho perso neanche tempo lì a cercarlo, perché sì, lo sguardo ce l'avevi, però non è che potevi andare da uno a guardare, a fare. Purtroppo chi aveva deciso di prenderlo era già bello che addosso, se n'è andato magari molto prima, cioè l'aveva già adocchiato. E allora, se buono è andato in Irlanda, le fanno finta di nulla, che dice niente. Allora sì, ne rubavano un bel di Giubbotti, io me lo ricordo, infatti sempre guardaroba lo mettevo. Una volta l'avevano fregato anche la borsetta un'amica mia, l'aveva messa sotto tutti i Giubbotti, invece che a chi non l'ha vista, era dimenticato la borsetta. E allora? Non faceva fidarti, perché c'era gente di tutti i tipi. Una volta siamo andati a Ruscello con mia moglie, io che ci andiamo a Ruscello a ballare, io. Allora eravamo sposini, dovevamo fare fidanzati, ne avevamo deciso per almeno 3 anni dopo sposati, quindi il sabato o il venerdì ci andavamo a ballare. Poi ci andiamo a Ruscello, era d'estate, avevano aperto bene il tetto, non sai come fanno a Ruscello che aprono il tetto. E stavamo ballando, ho trovato un paio di amiche così ballando e cosa. Poi entrano questi di Bose e cominciano a fare il casino, piazzano il casino, danno un colpo a uno, gli si rovescia il bicchiere, questo qua gli ha detto cosa. Tanto si sono girati, hanno picchiato a questo qua, poi sono usciti fuori, si hanno tolto la cintola a questo qua e ha cominciato a frustare a questo tipo con la cintola. Un casino, che da mia moglie. Io la giubilata da mamma e gli siamo andati. Sì, perché poi succede così già, cioè o ci stai o te ne vai, nel senso che o sei lì per far schioccare la scintilla oppure cerchi di evitare, onde evitare queste cose qua, perché tanto chi è lì o chi lo fa per attirare l'attenzione e fare casino, sai. A me era capitato una volta in un locale che noi eravamo lì, forse eravamo una quindicina, però sai, tutti spassi così, no? E c'erano questi tre dei paesi che si avevano puntato a questa amica mia, che questa amica mia era già fidanzata ufficialmente con un mio carissimo amico, e questo qua stesso non aveva per il suo lingua, nel senso che non ti viene su, non, anche lui era un tipo brigantello, nel senso che se gli capezzava il callo si girava tranquillamente senza dire niente. Vabbè, fatto sta che questo qua si è avvicinato alla tipa, lei c'è stata al gioco, no? Per dire, ciao, sei bella, questa e quest'altra, ah sì, anche tu, però bisogna vedere cosa dice il mio ragazzo, e quello facendo un po' lo sbolone, e ah sì, perché anche il ragazzo, prende questa amica con io, gli tocca le spalle, ha detto sì, io mi chiamo Franco, e lì la mia ragazza, e lì è iniziato un po' a calarsi un po' l'ambiente, no? Hanno visto che la cosa stava andando e esagerando, allora mi sono avvicinato un po' io, un po' qualcun altro, gli abbiamo toccato le spalle, e ho detto raga, guarda la bravi qua, perché cioè, noi non siamo attaccabrighe, però qua non siete neanche in paese, l'ho già detto, quindi non è che potete fare quello che volete. Quando sono visti circondati questi qua, cazzo, hanno detto cazzo, ve lo puoi. E quindi hanno deciso di. Beh, quando la fanno, non so cosa hanno fatto. Si sono messi il colletto tutti e tre e ce l'ho pagata bene tutti quanti. Vabbè. Non si possono permettere, ma cosa sono i paesi, ma la sorte sono tutti coalizzati. Io me lo ricordo una volta a Sorso che avevamo conosciuto queste all'UFO Club, non so se te lo ricordi quello che c'era a Sorso, avevo conosciuto due ragazze, io un amico mio, e loro ci stavano, dico la verità, siamo stati tutta la sera insieme, ballati insieme, ci siamo dati un appuntamento eccetera eccetera, e a un certo punto questa greffa di persone ci hanno fatto il cerchio attorno, ecco, uno di questi si è avvicinato e ci ha detto di lasciarli in pace, che erano le cugine, che questo che l'altro, e loro hanno detto no, non è vero, noi siamo tue cugine, non ti conosco nemmeno a te. E fatto sta che io ho detto allora, e allora che cosa? E ho detto, vabbè, comunque io a voi non vi sto cercando, quindi lasciateci in pace. Ecco, vabbè, scusa, comunque stavo scherzando, questo e quell'altro. E Mauro c'è cascato, siamo usciti fuori con le tipe e cose, e praticamente uno di questi ha detto, dai, io venite a bere, andiamo da bere, stavo scherzando e cose. Cazzo, questo amico mio ci casca, prende, cazzo, va nel bar, questo qui tira una testata e l'hanno picchiato in tre. E praticamente poi un giorno sono passato al Sacro Cuore, questi qua li abbiamo riconosciuti, li abbiamo tutti greffa da buio, li abbiamo tutti carrasciati in alto. E beh, sono miserabili, non è che purtroppo molta gente esiste anche per quello. Purtroppo, cosa vi faccio? Ne ho conosciuto gente che, anche alla Feroce, gente che si è fatto la fama di picchiatore, al buio però, e poi invece quando lo trovavi faccia a faccia era un agnellino, cosa mi fa capire? Che sono miserabile, basta, perché ho visto gente che al periodo delle giostre veniva chiamato, lui magari era dietro il carro con altri due per mantenere, e lo picchiava, cioè la cosa è, quello non è essere uomini, quello è essere miserabile, basta. Beh, come si chiama attore? No, Franco. No, perché ne conosco uno di fama lui. E vabbè, comunque c'è stata sempre la gente che andava a provocare apposta. Una volta siamo andati a provare che era la dama di Curi, e io ho un amico che è un bel prepotente, non si sa farla, ma il bevizio non si deve sbullire a nessuno, è prepotente di carattere. Stavamo ballando, questi qua lo imitavano come ballavano e si buonino a ridì. A un certo punto questo amico mi si è rotto le palle e ha detto, Sco, ma c'hai molto da ridere, o se ti faccio ridere spiegami il perché, almeno. Noi eravamo con le donne, ti premetto, e servivamo le ragazze. E questo qui gli ha detto, vedi, esci fuori che te lo spiego io, cazzo, manco male mi sono dannato io. Ha preso questo qua, c'è tutto il coltello, cazzo. Io come ho visto così, gli ho fatto la parata di birra, gli ho fatto piccare la mano. Ed era uno di Sassari, che tra l'altro io conosco il fratello, era uno del monte. Ho trovato il fratello e gli ho detto, vieni un attimo, devo dire due cose. Tuo fratello dice la prossima volta il coltello di metterselo dietro, perché la prossima volta avevo detto che uno lo uccido, perché stava minacciando un amico mio, gli ho detto che lo stava prima prendendo in giro qui, era a minacciarlo e cose. Ah, così, agita quando torna a casa, e tu a chi non avrei fatto mangiare, ho pulito maledetto. Aspetta quando torno a casa, avrei fatto mangiare, se non avrei fatto mangiare tu. Allora, noia, ma vabbè, diciamo che oggi come oggi, non ce ne sono più forti come una volta già, ormai c'è la polvere, la polvere lo fai da lontano, quindi... Purtroppo le cartottate le hanno dimenticate. E unisce a tutti, fascisti, comunisti, delinquenti, non delinquenti, tutte... Tu pensa che una volta che siamo andati in ambulanza a prendere questi due via Carmelo, che erano tutti in abito, con la cravatta, tutti ben vestiti, in overdose, tutti e due, l'abbiamo caricato in ambulanza, ci avevamo una barella, abbiamo caricato uno sulla barella e l'altro l'abbiamo messo in terra così com'è, e ci abbiamo partito dentro l'ospedale. Arrivati all'ospedale l'infermiere comincia a sfotterli e dice a questo qua, dopo che si è svegliato che gli hanno fatto il narcan, allora, oggi che cosa hai bevuto, cosa hai fatto, cosa è successo? Oh, non ho bevuto quasi nulla io, non ho bevuto quasi, anzi sono astemio. Mi hanno detto, ma hai mangiato frutta, una pera magari? E lui, no, non ho mangiato nulla. E allora si è fatta la pera. E lui, no, io no, sicuramente siccome ero invitato a un battesimo, qualche cosa in più l'ho bevuta. Cazzo, va via luci, l'ha portati all'indietro quando c'eravamo in ambulanza, stava partendo, abbiamo fatto tutto il tempo per arrivare e poi ha cominciato. arriva il poliziotto di turno e gli fa, anzi no, prima il dottore gli ha detto dove abiti, e in via Cagigaggi, numero Gucuau, e ha chiamato il poliziotto, non mi vuole dare dove, i dati, dove abita, ecco. E mi ha detto ragazzi ce li avete due paia di guanti, sì, uscite fu, non c'è problema. Che già ci arrangiamo noi qua a casa, dov'è che si ti va a fare, dov'è che abita, oh i pugni a goi, su sali da ecco duri guanti. Vabbè, ma io intendevo dire altra polvere già, dato capito, intendevo dire la polvere da sparo, dico gente forte, da quando hanno inventato la polvere da sparo, non esiste più, quindi anche il più debole diventa più forte dei furti. Ah beh, ma quella già c'è sempre stata, no, io pensavo la polvere, la cocaina, eccetera, eccetera, perché ti indebolisci e quindi non sei più forte come dovresti essere, ecco, per quello ho capito così. Ho capito. Bene, bene, beh, ragazzo, mi sa che ti saluto, che domani, se è fatta la giornata, ho deciso di fare un diretto al mare se riesco, così porto anche il bambino, la famiglia e ci passiamo una giornata lì. Avete considerato che oggi mi sono anche ustionato da quanto sono preso, per carità. Ma lavorando? Quando lavori così non ti ripara la gabbia? Sì, però sai, oggi era una giornata particolare, che sono andato a prendere dei tubi, quindi abbiamo fatto una fognatura io e il mio collega, e quindi si trattava di mettere i tubi nello scavo e fargli il piano di posa, e metterli bene con i polsetti, ballevare e poi gettarli, quindi l'escavatore l'abbiamo utilizzato solo la mattina per fare lo scavo e poi dovevo fare tutto il resto e dalle 2 diciamo sino alle 5 e mezza il sole che ho preso, ragazzi, mi ha ozzato, ho il collo, guarda, non volevi visto, sono rosso, ragazzi, rosso e nero allo stesso tempo, perché sono più ozzato che per carità. E allora occhio non andare in spiaggia domani, perché ti fa male, ti fa avere le piaghe. Se sei già rosso, non andare in spiaggia, perché cazzo, guarda che io l'ho provato, ho fatto vedere certe piaghe che non potevo manco toccarmi a quanto facevano male. Oh già, ma io guarda, di quei problemi lì non ne ho mai avuto, anzi, ti do la verità, io già sono un po' di carnagione scura, quindi non scurissima, però lo reggo bene il sole. Il problema è l'altro, che sono talmente nero, come che sono abbronzato, come ho preso per dire un mese di luglio, agosto in pieno, però con la magliettina, quindi anche se non la tolgo ce l'ho, ho segno della maglietta, cazzo, il collo nero, le braccia nere, mi devo per forza trovare qualche cucuzzolo per imboscarmi, abbronzarmi in maniera integrale. Vabbè, sei fortunato, sono di carnagione bianca, invece mi frutti subito. Basta che sia rosso, che mi torni al mare e vengono le piaghe. Infatti non mi frega più adesso, se sono rosso ma resto a casa. O almeno mi copro, stampinetta, perché sennò ti frega. La butti, ti lascio andare, dai. Buonanotte, tante cose belle. Già, alla prossima, dai. Buon weekend. Ci si riascolta. Ciao, buonanotte. Ciao. Ecco. Allora. A dire che ciao già. Mi hai sentito anche a Tino Muscolo che sta andando via. Da questa parte il Grodde. Poi il Grodde. Pensavo che eravate andati tutti quanti in greffa in giro, perché non ho sentito manco cosa, ho detto ma deve essere. Se ne sono usciti. Se ne sono andati a qualche parte a mangiare. Tra me ho pensato Non lo so, ma ti ripeto, io non posso perché domani mattina dobbiamo andare abbastanza lontano, quindi assolutamente no. Dove dovete andare? Arborea, Sagra delle Fragole. Arborea, mamma mia, lontanarino, non c'è le feste più vicine? vernice coso alghero per blindato, cioè se non hai gli incuzzi fra virgolette non vai da nessuna parte, capito? Ah, vabbè, c'è la Fertiglia l'altro giorno, lo stesso, ma io non ci sono manco andato, io me ne sono andato al Alghero perché ho trovato Angelo Fantasma lì e mi ha detto non ci andare già perché ci sono un sacco di macchine, non c'è parcheggio di nulla, siamo stati girando e poi ci siamo trovati indietro perché non c'era parcheggio, è un casino. No, no, assolutamente, ma poi guarda, non conviene neanche, anche dal punto di vista lavorativo, no? Quando sono troppo piene di c'è troppa gente, alla fine non pensare che sia positivo, anzi è il contrario. Un anno ho visto una storia, tu lo conosci quello che è sordo muto, che vende palloncini alle feste? Lo conosco nel senso di vita, sì. E quello che faceva verduraio in coso, in piazzare segni, eccetera. Quello lì ha combinato un casino, si è messo i palloncini davanti a questo torronaio, si è messo quei palloncini a quel torronaio, gli ha detto spostati perché tu mi togli la visuale, mi fai perdere i clienti, capito? E c'aveva un bel di palloncini, quindi in effetti lo coprivano completamente. Allora, questo qua si incazza e gli ha preso il dragone al coso, al torronaio, e lo stava minacciando col dragone, questo ha chiamato i carabinieri. Sono arrivati i carabinieri, non riuscivano ad ammanettarlo e attaccarlo al palo, perché dovevano ammanettarlo al palo, no? Per bloccarlo. E ha una forza, ha buttato una fila di moto, ha dato un calcio a questa fila di moto e le ha buttate tutte in terra. E adesso non è più così. Adesso anche i carabinieri hanno con lo spray orticante, te ne danno una passata, te ne fanno passare tutte le macchine. Fa prurito, cosa fa prurito? Prurita gli occhi, non puoi vedere più, e poi ogni volta che respiri sembra che stai respirando fuoco, capito? Quindi ti neutralizza. Non lo sapevo questo qui che abbiamo questa cosa. Comunque, certo, si è girato, guarda, mia moglie era spaventata, si è messa a gridare, ha dato un calcio, una forza impetuosa, ha buttato tutte le moto in terra, c'era una fila, c'erano state 4-5 moto tutte in fila, brum, una dietro l'altra. Certo, domino. Il problema, ti stavo dicendo, è sempre meglio lo spray orticante che quello che invece c'hanno i poliziotti americani, che è il taser, quello che ti lancia i due dardini e ti danno la scossa. Ci sono quelli che ti fanno le lacrimogene, tipo lacrimogene che ti sputano negli occhi, anche in Inghilterra li usano questi spray, le donne soprattutto ce l'hanno in borsetta per l'antiviolenza. Lo sto dicendo, quello lì. Scusate, quello che c'è in Italia è al caspium, è una specie di peperoncino, acqua e pepe, capito? Vabbè, ma ti crepa, ti frigge un bel, lo stesso. Vabbè. Quelle armi sono buone per bloccarti, sono tutte buone per bloccarti. Ma comunque, guarda, hanno fatto una fatica, due carabinieri, attaccato al palo, poi alla fine hanno attaccato al palo e mi hanno messo la manetta, attaccato al palo e chiusa con la chiave, boh, ma sta ferma dentro, gli ha detto, oh stai buono, gli ha detto, o ti carichiamo in macchina, ti portiamo dentro. Si metteva a gridare. Adesso, ti ho capito che è un po' molesto. Sì, sì, e anche rompiballe. Vedi, quelli ne trovi la buttatura, perché a seconda di come ti poni con la persona, ti ripeto, puoi avere più o meno problemi. Ma io mi ricordo una volta che in pullman tornando a Porto Torres, quando ancora non usavo l'Italia per andare a Porto Torres, si è messo prima a carezzare questa tipa bionda, questa qua ci ha detto cosa, smetterla. E l'autista gli ha detto, guarda che perché non è perché sei sordomuto che io ti temo, io ti prendo, ti do un calcio una sedia e ti butto fuori dal pullman. Tu non puoi stare a rompere le scatole alla gente così. Poi è venuto da me, io avevo un paio di scarpe aperte, stavo ritornando dal lavoro e cosa, c'ho un paio di scarpe aperte, si è messo a tapparsi il naso, a fare che come dire che c'era puzza, e faceva chiamava tutti, faceva così. Cazzo, alla fine mi ha fatto incazzare, giubilato il barucollarino, ha detto, oh, bello, bello, fai da bravo, perché se alla fine l'autista ha preso, gli ha detto, ottici di lì, si è alzato, l'autista, ottici di lì, gli ha detto, oppure, ti apro lo sportello e ti sbatto fuori, se è stato fermo, se quel pezzo sino a quando è arrivato. Piedi, gli veniva male. E comunque, ti ripeto, in questi ambienti ne trovi di gente strana, tutto l'assurdo, quelli da più di cui ti aspetti il peggio, poi alla fine sono le persone più tranquille, guarda. Sì, ma l'interessante è non avere problemi con nessuno, cercare di rispettare certe regole che hanno loro, perché tu ancora, diciamo, nel giro sei nuovo e non puoi conoscere tutte le regole che hanno loro, ma magari loro si fanno delle leggi loro, magari per rispettarsi uno con l'altro, capito? Tu devi fare questo, devo fare questo, e poi tu non è che stai facendo panini, i panini già un po', già hanno un po' di rivalità. Infatti, ti stavo dicendo proprio da certe persone da cui mi aspettavo un certo tipo di atteggiamento negativo, invece sono quelli che si sono comportati meglio. A prescindere da questo, qualche sbaglio l'ho fatto anche domenica scorsa, capito? Sono arrivato per ultimo e mi sono messo per primo, però lì è quando non c'è, i problemi ci sono quando non c'è nessuno che ti dà il posto d'assegnazione. Quando il posto è assegnato tu te ne freghi, capito? Perché ce l'hai assegnato, te l'assegnano i vigili urbani. Quando invece ti dicono il libero, e allora lì su te di casino. E quindi ha avuto problemi? No, però sai, gentilmente uno mi ha fatto, cioè, se avessi fatto lo strafottente, sì, invece io sono andato, chiedo scusa, mi sono messo, gli ho detto, non avevo capito che iniziava qua e non dall'altra parte, perché l'inizio e la fine, a seconda di dove lo vedi, una salita può sembrare una discesa, no? A seconda di dove la guardi. E gli ho detto, quindi non l'ho fatto apposta, ma ho visto che ero in buona fede, non ci sono stati problemi. Ma poi veniva tutt'altro articolo. Però ti dico, c'è gente che da cui mi sarei aspettato un certo tipo di atteggiamento intrafottente, invece sono stati le persone più squisite nel comportamento. Vabbè, ma quando uno si comporta bene nessuno dice niente. Interessante che di non fare concorrenza sleale, queste cose qui, perché poi se no ti fai. Ma poi come vi ponete voi? È già una cosa diversa dal vecchio, quello che faceva lì, che ho fatto prima, che tutto mal vestito, tutto faceva anche schifo con i camici sporchi. C'era anche la presenza, vuol dire tanto, ecco, non perché siete voi, però io ho notato che avete una bella presenza col cappellino, con una divisa. E anche quello lì immagine. Ma infatti, a parte non ho capito perché hai detto faceva. Chi faceva? Hai detto faceva, quello lì che faceva. Ah, ma deve, quelli che facevano lo zucchero, no, che facevano lo zucchero filato anticamente, diciamo, di solito usavano grembiuli tutti sporchi, bianchi, però sporchi. No, ma tu ti stai rifacendo a una persona in particolare che è ancora vivo, che è quello che nelle piazze non si adegua ai costi degli altri, fa sempre un euro in meno, capito? E quel napoletano con i baffi, c'è ancora, c'ha tipo 87 anni, arriva lì, tu lo vendi a due, lui lo vende a uno, tu lo vendi a uno, lui lo vende a 50 centesimi, sempre così. Più forte la piazza, naturalmente. Perché la gente non è che guarda, se uno è popolare, se si accontenta di 50 pagare 50 centini, neanche se magari chi fa lo zucchero fiato è Pocaccioni. Infatti io ti dico una cosa, io adesso ho appena finito di lavare tutte le macchine, tu vedi la macchina che lui non l'ha mai lavata, mai. Noi ogni giorno finito il lavoro, il massimo il giorno dopo le portiamo su e le laviamo completamente, tutte smontate e dopodiché lavate e rimontate. Questo qua invece non le ha mai lavate, quindi io sfido chiunque, se vuoi bene a tuo figlio, alla persona che stai portando lì a comprargli la roba, guarda le mani di questo qua e dopodiché dimmi se te ne viene la voglia di mangiarlo. Insomma, ce ne sì, ma quelli che li facevano prima, anche quelli che vendevano i torronai, prendevano le briciole, ma non ricordo quelle che cadevano, prendevano, te le mettevano nella busta. Però lo fanno ancora. E già, non pensare che siano così cambiate le cose. Qualcuno si è adeguato, perché si è reso conto che molto spesso la forma è quella che conta in questo ambiente, nel senso che stai trattando comunque beni alimentari ed è normale che la gente ti guarda ormai, ti guarda perché non è più come prima, guarda se prendendo i soldi dopo tocchi la roba da mangiare, tutta una serie di cose. Io non credo di aver inventato niente, però è proprio la forma che conta, capito? Come hai detto tu, ti presenti in un certo modo e puoi fare anche, diciamo, un prezzo, chiaramente non deve essere esoso, però un prezzo che è un attimino superiore a quello che faceva il classico cadotto tutto brutto, è normale, però poi alla fine lo sai che cos'è già, che come vedono che stai girando soldi o qualche soldino, i soldi poi stiamo parlando di davvero poche decine di euro, subito ti copiano e quindi devi essere pronto a cambiare. Ah beh, però sì, un po' di inventiva ci vuole ogni tanto, ma diciamo che se la gente è pulita guarda anche l'immagine, poi ci sono quelli che si accontentano il primo che capita, di buoni gli danno i soldi, si fanno le cose più filate senza guardare se c'è le unghie nere. Io queste cose le guardo, io per dire, una volta sono andato a prendere degli agnelli a Cossiglia, me lo ricorderò sempre. Sono capitato in questo ovile, c'erano i pastori che stavano mangiando e bevendo formaggio, salsiccia, vino la mattina presto, e c'era anche la bottiglia della corrente alle 7 di mattina. E mi hanno detto, Alughiere, un duque salsiccia. E ho detto, no, non ne mangio di mattina io. No, è buona, mi ha detto. Ragazzo, non ti piace la salsiccia? No, già mi piace, ma la mattina non la mangio. E da un bicchiere di vino, allora mi hai pensato, bevi, un'andata io. E ho visto i bicchieri, erano opachi, sì, secondo me li usavano di volte in volte senza lavarli. E non io, me l'hanno messo e non li ho bevuto, non li ho toccato proprio. Continuando a parlare, Besino non lo vive, non gli ho detto, guarda, sono indisposto, non ne ho voglia, ho un mal di stomaco. Poi hanno preso e mi hanno regalato un boccione di acqua vite e mi detto, questo te lo bevi in viaggio, io che se bevo un boccione di acqua vite in viaggio mi trovavo crepato. Ma tu sai gli studi che stavo facendo, cioè che sto facendo io, no? Mi mancano un po' di esami, adesso sono arrivato a 7, me ne manca. Fatto sta che ho imparato ad avere il colpo d'occhio su determinate cose, soprattutto sulla pulizia. Fatto sta che sai quante volte siamo andati nelle pizzerie, quasi tutti i pizzaioli, se tu gli guardi le mani, hanno gli angoli delle dita in suppurazione, pieni di pus, perché mentre quando impattano la pasta per le pizze, gli entra lì negli interstizi delle unghie, la pasta con lievito, e il lievito è batteriologicamente è proprio una carica batterica allucinante, quindi gli manda subito in pus i bordi delle unghie, ed è una cosa, se lo guardi tu, io non mangerai più pizza. Non ci ho mai fatto caso, dico la verità. Ho fatto i corsi HACCP comunque, quindi qualche cosa di pulizia di igiene la conosco. E niente, mi hanno detto chi ci ha fatto i corsi, ci hanno detto che una volta si lamentavano i clienti di questo panificio che sentivano un profumo nel pane, era un profumo proprio di persona, e hanno scoperto che c'era un panettiere che prima di andare a lavorare si profumava tutto e lasciava sapore del profumo nel pane, da tutte le parti. Comunque io ti dico una cosa, per esperienza te lo dico, e per averlo studiato, molto meglio un bicchiere sporco, un piatto sporco, che l'indomani ti fa venire la cagarella, piuttosto che un bicchiere sciacquato male dopo che l'hai lavato col detersivo, perché il piatto sporco, ti ripeto, con la roba da mangiare del giorno prima, o comunque anche sporco a livello batteriologico, ti fa venire la tagliarella il giorno dopo, mentre invece quello lavato male, cioè sciacquato male, che ha tracce di detersivo, ti fa venire la patologia, capito? Sì. Vabbè. Io già non ne ho usato mai di lavacchetti per quello, non mi fido molto. Li abbiamo sempre lavati a mano. E poi per i piatti li usiamo anche di plastica, non solo di metterlo. Quindi li buttiamo via, è tolto il problema. E poi tu lo sai che cos'è la cosa meno inquinante di questo mondo? No? Vabbè sì, certo. Però la cosa meno inquinante è la plastica. Tutti pensano che sia la cosa più inquinante, invece è la meno inquinante, perché tu adesso la prendi ed è un pezzo di plastica, fra 100 anni è sempre un pezzo di plastica. Inquinante è quella cosa che per disgregazione, a seguito del tempo che passa, te lo ritrovi nelle falde acquifere, te lo ritrovi, che sono tutte quelle cose che ti dicono che sono, diciamo, si disgregano al 97%, e quel 3% però magari te lo ritrovi sotto forma di altre cose, nelle falde acquifere o da qualche altra parte, capito? Mentre invece la plastica, l'unica cosa per cui la recicliamo è perché, proprio perché dura centinaia e centinaia d'anni, va in sovrapproduzione, quindi o la ricicli oppure ci ritroveremo il mondo pieno di plastica. Però se tu lo butti per terra in una foresta, per dirti, in un campo, non lo stai inquinando, lo stai inquinando visivamente, nel senso che dà fastidio vederlo, però realmente non crei nessun danno a un albero se tu lo riempi di plastica. Non si crea una trasformazione, non va nelle parti che potremmo utilizzare noi, eccetera eccetera. Sì, ho capito ciò che vuoi dire. Rimane sempre plastica e via, non muta. Assurdo, ad esempio la carta è una delle cose più inquinanti di questo mondo, la carta riciclata, perché innanzitutto per sbiancarla utilizzano degli sbianchi, dei prodotti chimici che poi riversano nell'ambiente, ma la stessa carta messa nell'ambiente, il colorante che ha, quello ti crea problemi nella falda acquifera. Il bicchiere di plastica rimane bicchiere di plastica, ti dà fastidio perché lo vedi, però realmente non crea nessun problema dal punto di vista organolettico, sotto altri punti di vista, capito? Quando lo dici queste cose, le persone mi dicono: guarda che la cosa meno inquinante è la plastica, te ne dicono di tutti i colori, e invece se ci pensi è proprio così. E non si trasforma, certamente. È una cosa che io non avevo mai pensato, sinceramente, però anche io in effetti la vedo come una cosa inquinante, la plastica. Quindi se si fosse trasformato in petrolio e queste cose così, sarebbe il liquame, cosa sarebbe stato inquinante, ma in effetti è solidificato e quindi non crea nessun problema. Sì. Plastica è un derivato del petrolio, nel senso che la plastica la ottiene dal petrolio, dall'elaborazione del petrolio. Ma tu immaginate, è inquinante per una sovrapproduzione, come ti stavo dicendo. Tu pensa che nel Mediterraneo, a largo del Mediterraneo, vicino alle coste, adesso non mi ricordo se è della Francia o della Spagna, però più in basso, diciamo più verso lo stretto di Gibilterra, c'è un'isola completamente di plastica, che è data dal fatto che tutti i pezzi di plastica, tutta la cosa di plastica che ci sono nel Mediterraneo, tramite le determinate correnti che si incrociano in quel punto, hanno creato proprio questo deposito che è al pari di un'isola quanto la Sardegna, pericolosissima per la navigazione. Allucinante. Perché le imbarcazioni molte volte si puliscono le imbarcazioni e buttano in acqua, è normale che si formino queste cose. Ma se tu guardi, sono quelli della Tirrenia e della Grimaldi, che sono davvero delle merda, mi sento di dirlo, perché per non portarsi la spazzatura fuori dalle cabine, quando stanno arrivando sulle coste, iniziano a scaricare i bidoni di Mondetta in mare. Tanto è vero che se tu vai a Platamona, alle 8 il mare è pulitissimo, alle 3 del pomeriggio, che è giusto il tempo che ci sta, da dove passa la nave a arrivare sulla costa, iniziano ad arrivare tutta una serie di residui di cabine, pannolini sporchi per signora, tutta una serie di cose che poi si vede che, fra l'altro, bicchieri con la scritta Saremar e tutta un'altra serie di cose. Sono davvero, quelli li vedi, andrebbero arrestati secondo me, perché quello lì vuol dire inquinare. Beh, poi c'è anche marchiato, c'è scritto il marchio. Sono arrivati un po' di navi spagnole, produttore, navi da crociera. Sì. Speriamo bene, cioè speriamo bene, evidentemente loro tutta questa crisi non ce l'hanno e ce la stiamo soffrendo noi, ma ben vengano. Ad esempio io avrei tolto una cosa in Sardegna che era chimica e l'avrei sostituita con alberghi e avrei fatto davvero un'isola felice invece di mettere fabbriche di trasformazione come può essere l'ENI. Capito? Tutte le persone che lavoravano all'ENI invece di farli lavorare lì, che è una cosa fra l'altro pericolosa, perché se tu guardi Porto Torres ha una percentuale di tumori molto molto alta rispetto alla media nazionale. Noi ci salviamo perché c'è il maestrale che ci porta via un po' di merda tramite l'aria, però se avessero trasformato quella cosa in una struttura alberghiera sarebbe stato meglio per tutti. Buonasera. Senza ombra di dubbio, perché quella zona industriale, è inquinato mare, aria, tutto. Terreno pure, perché l'ha sotterrata anche la roba. È roba pericolosissima sottoterra. Avanti, gran buonasera. Contraccambiata al centro, avanti. Navigatore Cerro, ma c'è una da Barcellona? E sta partendo una arrivando l'altra, la rotazione stiamo facendo. Era una anche oggi. Luca, scusami. Tutto bene, allora sarete contenti. Soprattutto, ma chi è quel che è morto di proprietario di Barres che stavate dicendo? Quella che c'è la classica al costo lì. Però risulta nell'atto della chiesa, si chiama Peter Pan, nel panificio del produttore, si chiamano Giorgio e Giusto. E lui come si chiama? Riccardo Giorgio. Con quanti anni avrà? 30 anni. È un tipo alto per caso, grosso? Sì, per già stato, dai, per già alto. Come è stato padre 25 giorni fa. È brutta. Ma com'è andato l'incidente? Non ho capito, perché ho visto, stavo sentendo più che altro quello che si è successo a Sassari. No, ma questo padre io stavo guardando la televisione giornale, ma probabilmente dopo la comunicazione non c'è più servizio. Non so, quello della voce stavano girando lì, così si è mandato, non c'è, adesso si viene l'altra voce e quasi va volato. Ma scusa, riprendete un attimino che sto prendendo il computer, così guardo anche sul computer se c'è qualcosa. Tutto è presente, passando da sorso di Birgat dove c'è la fiamma sana. Sì, a Paisa c'è qualcosa magari a dove, c'è tutto in Romagna. Avanti. Ciao, ho presente. È presente l'incrocio che c'è per andare verso la 131, c'è quel curvone subito dopo. È lì che deve essere successo. Ma Roger, bruttino, eh? Io lì ho trovato un tipo che è caduto in moto, ho già lui, che è tutto brugoloso in faccia, non so se ce l'ha presente. Ma si può notare? Eia, stavo andando a prendere il bambino, è caduto con la moto, cazzo, l'ho visto, io ero dietro con la moto, cazzo, ho visto facendo la curva, ho visto che ha sbagliato e ci sento dritto, cazzo. E lui era preoccupato per la moto, era molto nuova, poi fa andare a prendere il bambino, detto che era in terra, non riusciva manco a muoversi, lui preoccupato per la moto. Ha detto dammi il numero di tua moglie che la chiamo io, glielo dico di andare lì a prendere il bambino, non c'è problema. Ma adesso dammi, ti do il telefono, gli ho telefonato e tu sì, la guardi che suo marito ha avuto un problema con la moto e ma cosa è successo? No, non è successo niente, guardi, da dei graffiti è caduto, dei graffiti, ma non è, ma è sicuro, sì, dovrebbe andare a prendere il bambino perché lo stanno portando a curarlo all'ospedale. Allora si è fatto male, no signora, non si preoccupi. Lui era più che altro spaventato e preoccupato per la moto che era nuova, capito? No, è caduto bene, sai perché? Perché ci è uscito, è caduto proprio sull'erba e lui gli ha finito il colpo d'erba, ma se no se fosse stato sull'asfalto guai, si l'aveva mangiato. Certo che è così, perché se anche tu non ce la fai a frenare, che ha un impatto, ce l'avrai sempre minore di un impatto ad alta velocità, c'è poco da fare. E ci mancherebbe, anche che trova il contrario. Provo che nessuno che trova il contrario. E comunque tante volte basta, diciamo che se uno non se la cerca, gli succede come quella donna che stasera mi ha detto che la macchina l'ha vista volare come un uccello grosso, l'ha vista, praticamente la macchina ha saltato il cordolo ed è andata verso di lei, capito? Invece l'ha vista andando proprio di fronte. E l'ha fatto, deve essere che ha sterzato di lato. E l'ha presa di lato, ha capottato la macchina e poi l'ha presa di lato, se no gli sarebbe caduta sulla capota e l'avrebbe schiacciata anche a loro. Quello sarebbe l'ogna della storia, che decido di poter provare al momento sbagliato nel modo sbagliato. Non potrebbe essere l'ogna di destino, ma no, tutti un ogna di con un remoto, cosa vuoi dire? Prima porto di tutte le altre cose, rispetto a chi dico che anda piano, tranquillo, ecco. Magari chi si è sfigato invece una macchina rubita in piena anche se da Biano la macchina. Vabbè, ci sono, sì è vero, chi se la cerca comunque ha più possibilità che gli succeda qualcosa. Via. Infatti ha parlato, ma ripeto, tramite come notizia così. L'ha detto al telegiornale a Videolina, ha detto solo più o meno come era successo, ma non hanno fatto vedere filmato nulla, no? Sicuramente la notizia è arrivata da poco e non hanno fatto il tempo a preparare tutto il servizio. Poi c'era la Nuova Sardegna, il fotografo della Nuova Sardegna c'era, uno che stava facendo le foto e un vigile del fuoco gli ha detto guardate che non è roba da mettere su Facebook questa, brode. Te la approfitta e fuggi. Ah, Giallo riprendi. Finito hai. Giallo.